non mi toccare. Perché? Perché mi chiedi? Perfida, il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele. No, no, taci crudele, io non merito da te tal trattamento. Come? E dai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi lì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo vorrei. Ma se colpa io non ho, ma se da lui inganno